E siamo rientrati in diretta dopo aver ascoltato anche questa quarta sezione dell'opera Drumming, composta da quattro appunto parti. Abbiamo ascoltato la quarta e ultima parte di questa opera, splendido lavoro, insomma non ci vogliono altri commenti, direi la musica ha fatto già tutto quello che doveva fare. Appunto la traccia e diciamo l'opera A, opera B, opera C, abbiamo ascoltato l'opera D, la quarta parte appunto dell'opera intera Drumming. E adesso ci caliamo diciamo dentro l'opera più famosa di Steve Reich, composta tra il 1974 e 76, e la prima diciamo realizzazione in pubblico, il primo concerto, la prima esecuzione, è datata 24 aprile 1976 al Town Hall di New York. Dunque insomma siamo lì il 21 aprile, oggi è già il 22, dunque siamo proprio vicinissimi alla prima esecuzione pubblica eseguita a New York da Steve Reich. Parliamo di Music for Eight-Time Musicians, opera molto famosa, semplicemente alcune parti sono state anche utilizzate tantissimo appunto nell'ambito mainstream, e dunque qualcuno anche se non è amante o appassionato di minimalismo di Steve Reich lo ricorderà. La cosa interessante da raccontare un po' la storia di questa opera, un'opera che è stata scritta per un violoncello, un violino, due clarinetti, quattro pianoforti, tre marimba, due xilofoni, un vibrafono e quattro voci femminili. La cosa interessante è che appunto l'intera opera è basata sulla classica sua serie ciclica e circolare di 11 accordi, ogni singolo diciamo frame è basato su uno degli accordi e alla fine dell'esecuzione si ritorna praticamente al punto originario. Tutte le sezioni si intitolano semplicemente Pulses e Section dalla 1 alla 11. Ed è fondamentalmente questa opera il primo vero tentativo di Reich realizzato e pensato, studiato e composto per grandi formazioni orchestrali. Dunque da questo momento inizia il lavoro e l'interesse da parte di Reich verso le realizzazioni e le esecuzioni orchestrali, oltre che ovviamente le composizioni in questa ottica orchestrale. E ovviamente la grande quantità di musicisti presenti sia nella registrazione, che poi sarà successiva nel 1978 la prima diciamo registrazione, la prima pubblicazione su vinile per l'ECM, ma in realtà appunto l'opera era stata già eseguita pubblicamente dal vivo nel 1976 e costruita in due anni fondamentalmente tra il 74 e il 76, appunto cresce appunto l'interesse verso appunto orchestre, dunque grandi quantità di musicisti ed esecutori, e in questo senso cresce anche diciamo l'effetto psicoacustico creato dallo stesso Steve Reich, che affascinava lo stesso Reich soprattutto nel periodo della metà degli anni 70. Lo stesso Reich infatti aveva dichiarato in quel periodo che voleva approfondire moltissimo questo aspetto psicoacustico, e dunque l'utilizzazione di un aspetto orchestrale, di una struttura orchestrale, era un tentativo, una sperimentazione di Reich verso questa direzione, soprattutto per centrare il suo lavoro sull'incremento di armonie e melodie che potessero svilupparsi in maniera crescente e anche abbastanza dirompente nella stessa opera. L'altra cosa interessante da ricordare di questa composizione è l'uso del respiro umano, soprattutto diciamo nell'esecuzione, nella interpretazione dei clarinetti e nelle voci, che dà appunto contribuisce a dare struttura e impulso alla stessa opera. Dunque, fondamentalmente la cosa che emerge di più in quest'opera di Music for Eight-Time Musicians è appunto l'aspetto orchestrale e l'aspetto anche del respiro umano, e dunque la nota pulsante diventa appunto il respiro che viene attraversato dagli strumenti che prima vi citavo, ma generalmente dall'opera e da tutta l'orchestra costruita, oltre al fatto del vibrafono, che è un elemento centrale anch'esso nella nella costruzione di questa opera, soprattutto per indicare alla stessa orchestra il passaggio e le transizioni tra le varie sezioni dell'opera stessa. A questo punto non ci resta che ascoltarla, potremmo ascoltare ovviamente soltanto la parte, l'incipit, la prima parte dell'intera opera, che dura veramente molto, ci vorrebbe una puntata solo per questa opera di Music for Eight and Musicians, però insomma vogliamo dare un piccolo tributo a Steve Reich e ricordarci appunto almeno soltanto una parte, la parte iniziale di questa splendida capolavoro. Andiamoci ad ascoltare dunque Steve Reich da Music for Eight and Musicians. Purtroppo abbiamo dovuto sfumare in una maniera terrificante, francamente sì, non è molto bello chiudere un'opera del genere che sta decollando, ma d'altronde abbiamo ascoltato almeno l'incipit, è veramente impossibile poterla mandare in onda completamente se non fuori, diciamo, trasmissione, perché dovremmo fare un'intera puntata su Music for 18 Musicians. E chiudiamo ormai il nostro primo percorso, perché sicuramente torneremo ancora ad affrontare la figura di Steve Reich, anche perché dal 79 in poi ha realizzato altre opere interessanti, importanti, anche se direi il periodo storico più fecondo è stato sicuramente questo primo periodo dal 65 al 79, ma troveremo qualcosa anche dopo negli anni 80 e anni 90 che merita, anche qualcosa negli anni zero, bisogna dire, che merita comunque attenzione. Sicuramente faremo una seconda parte successivamente in futuro dedicato, diciamo, ancora a Steve Reich, la seconda, diciamo, parte della sua storia compositiva. E chiudiamo la puntata di stasera ascoltando anche qui un frammento, essendo un'opera anche questa piuttosto lunga. Si tratta di Eight Lines, uscita nel 1979 for octet, dunque un ottetto costituito da un quartetto d'archi, due piani e un clarinetto e un flauto. Ce l'andiamo a soltare per chiudere, e spero che vi sarete addentrati, chi lo conosceva già, diciamo, a ricordare, a riascoltare opere meravigliose già conosciute, già ascoltate appieno da parte degli appassionati. Chi non l'aveva mai ascoltato forse si interesserà al personaggio, alle opere che lo stesso Steve Reich ha costruito negli ultimi decenni, e chiaramente si potrà appassionare, chissà mai, anche a questo splendido linguaggio musicale che è ed è stato e sarà, perché io penso che sarà ancora, perché è un linguaggio ancora molto vivo, quello del minimalismo. C'è da ascoltare, dunque chiudiamo la puntata di stasera, tracce di Steve Reich e il minimalismo circolare dal 1965 al 1979 con l'opera Eight Lines. Buonanotte, ovviamente un saluto da Elisio Scarpa, e vi aspetto per giovedì prossimo sempre dalla mezzanotte circa su Radio Città Fujiko. Buonanotte, ciao.